O voi che credete, ricordate i benefici che Allah vi ha concesso il giorno che una fazione voleva alzare le mani contro di voi ed egli arrestò le mani loro. Temete Allah. Confidino in Allah i credenti. Allah accettò il patto dei figli di Israele e suscitò da loro 12 capi. Allah disse: «Sarò con voi, purché eseguiate l'orazione e paghiate la decima e crediate nei miei messaggeri, li onoriate e facciate un bel prestito ad Allah. Allora cancellerò i vostri peccati e vi farò entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli. Chi di voi, dopo tutto ciò, sarà miscredente, si allontana dalla retta via». Ma essi ruppero l'alleanza, e noi li maledicemmo e indurimmo i loro cuori. Stravolgono il senso delle parole e dimenticano gran parte di quello che è stato loro rivelato. Non cesserai di scoprire tradimenti da parte loro, eccetto alcuni. Sii indulgente con loro e dimentica. Allah ama i magnanimi. Con coloro che dicono «siamo cristiani», stipulammo un patto, ma dimenticarono una parte di quello che era stato loro ricordato. Suscitammo tra loro odio e inimicizia fino al giorno della resurrezione. Presto Allah li renderà edotti su quello che facevano. O gente della scrittura, ora è giunto a voi il nostro messaggero per spiegarvi molte cose della scrittura che voi nascondevate e per abrogarne molte altre. Una luce e un libro chiaro vi sono giunti da Allah. Con essi Allah guida sulla via della salvezza quelli che tendono al suo compiacimento. Dalle tenebre li trae alla luce. Per volontà sua li guida sulla retta via. Sono certamente miscredenti quelli che dicono «Allah è il Messia figlio di Maria». Di chi potrebbe opporsi ad Allah se egli volesse far perire il Messia figlio di Maria insieme con sua madre a tutti quelli che sono sulla terra? Ad Allah appartiene la sovranità sui cieli, sulla terra e su tutto quello che vi è frammezzo. Egli crea quello che vuole. Allah è onnipotente. Giudei e Nazareni dicono: «Siamo figli di Allah e i suoi prediletti». Di: «Perché allora vi castiga per i vostri peccati? Sì, non siete che uomini come altri che lui ha creato. Egli perdona a chi vuole e castiga a chi vuole. Ad Allah appartiene la sovranità sui cieli e sulla terra e su quello che vi è frammezzo. A lui farete ritorno». O gente della scrittura, il nostro messaggero vi è giunto dopo un'interruzione nella successione dei profeti affinché non diciate: «Non ci è giunto nunzio né ammonitore». Ecco che vi è giunto un nunzio e un ammonitore. Allah è onnipotente. E quando Mosè disse al suo popolo: «O popolo mio, ricordate la grazia di Allah su di voi quando ha scelto tra voi i profeti, e fece di voi dei re, e vi diede quello che non aveva mai dato a nessun popolo al mondo. O popolo mio, entrate nella terra santa che Allah vi ha destinata e non volgete le spalle, vi ritrovereste perdenti». Dissero: «O Mosè, essa è abitata da un popolo di tiranni. Noi non vi entreremo finché essi non siano usciti. Se escono, allora entreremo». Due dei loro, timorati e colmati da Allah di grazia, dissero: «Entrate dalla porta. Quando sarete dentro, trionferete. Confidate in Allah se siete credenti». Dissero: «O Mosè, noi non entreremo finché saranno colà. Va tu con il Signore tuo e combattete insieme. Noi resteremo qui in attesa». Disse: «Signore, ho potere solo su me stesso e su mio fratello. Separaci da questo popolo di perversi». Disse Allah: «Ebbene, questo paese sarà loro vietato per 40 anni ed essi erreranno sulla terra. Non ti affliggere per un popolo di iniqui. Racconta loro, in tutta verità, la storia dei due figli di Adamo, quando offrirono ad Allah un sacrificio, ed ecco che l'offerta di uno fu accettata e quella dell'altro no. Questi disse: «Ti ucciderò certamente». Rispose il fratello: «Allah accetta solo da parte di coloro che lo temono. Se alzerai la mano contro di me per uccidermi, io non la alzerò su di te. Io temo Allah, il Signore dei mondi. Voglio che tu ti addossi il mio peccato e il tuo, e allora sarai tra i compagni del fuoco. Questa è la ricompensa per gli ingiusti». La sua passione lo spinse ad uccidere il fratello. Lo uccise e divenne uno di coloro che si sono perduti. Poi Allah gli inviò un corvo che si mise a scavare la terra per mostrargli come nascondere il cadavere di suo fratello. Disse: «Guai a me, sono incapace di essere come questo corvo, sì da nascondere la spoglia di mio fratello». E così fu uno di quelli afflitti dai rimorsi. Per questo abbiamo prescritto ai figli di Israele che chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l'umanità intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta l'umanità. I nostri messaggeri sono venuti a loro con le prove, eppure molti di loro commisero eccessi sulla terra. La ricompensa di coloro che fanno la guerra ad Allah e al suo messaggero e che seminano la corruzione sulla terra è che siano uccisi o crocifissi, che siano loro tagliate la mano e la gamba da lati opposti o che siano esiliati sulla terra. Ecco l'ignominia che li toccherà in questa vita. Nell'altra vita avranno castigo immenso. Eccetto quelli che si pentono prima di cadere nelle vostre mani. Sappiate, Allah è perdonatore, misericordioso. O voi che credete, temete Allah e cercate il modo di giungere a Lui e lottate per la sua causa affinché possiate prosperare. Quand'anche i miscredenti disponessero di tutto quello che c'è sulla terra e altrettanto ancora, non sarebbe loro accettato come riscatto nel giorno della resurrezione. Avranno doloroso castigo. Vorranno uscire dal fuoco, ma non ne usciranno. Avranno perpetuo tormento. Tagliate la mano al ladro e alla ladra per punirli di quello che hanno fatto e come sanzione da parte di Allah. Allah è eccelso, saggio. Quanto a chi si pente e si corregge, Allah accetta il suo pentimento. In verità Allah è perdonatore, misericordioso. Non sai che ad Allah appartiene il regno dei cieli e della terra? Egli castiga chi vuole e perdona chi vuole. Allah è onnipotente. O messaggero, non ti affliggere per quelli che ricadono nella miscredenza dopo che le loro bocche hanno detto «Noi crediamo», mentre i loro cuori non credevano affatto. E neppure a causa dei giudei che ascoltano solo per calunniare, che ascoltano per altri che non sono mai venuti da te. Stravolgono il senso delle parole e dicono: «Se vi è dato questo, accettatelo, altrimenti siate diffidenti». Se Allah vuole che un uomo cada nella tentazione, tu non puoi fare niente contro Allah per proteggerlo. Essi sono coloro i cui cuori non ha voluto purificare. Avranno l'ignominia in questa vita e un castigo immenso nell'altra. Ascoltano solo per diffamare, avidi di illeciti guadagni. Se vengono da te, sii arbitro tra loro o allontanati. E se ti allontanerai, non potranno mai nuocerti in nulla. Se giudichi, fallo con giustizia, che Allah ama i giusti. Come mai potranno sceglierti come giudice quando hanno la Torah con il giudizio di Allah e dopo di ciò volgere le spalle? Essi non sono credenti. Facemmo scendere la Torah, fonte di guida e di luce. Con essa giudicavano tra i giudei i profeti sottomessi ad Allah, i rabbini e i dottori. Giudicavano in base a quella parte dei precetti di Allah

e sua madre era una veridica. Eppure entrambi mangiavano cibo. Guarda come rendiamo evidenti i nostri segni, quindi guarda come se ne allontanano. Di, adorerete all'infuori di Allah qualcuno che non ha né il potere di nuocervi né di giovarvi? Allah tutto ascolta e conosce. Di, o gente della scrittura, non esagerate nella vostra religione. Non seguite le stesse passioni che seguirono coloro che si sono traviati e che hanno traviato molti altri, che hanno perduto la retta via. I miscredenti tra i figli di Israele che hanno negato sono stati maledetti dalla lingua di Davide e di Gesù, figlio di Maria, ciò in quanto disobbedivano e trasgredivano, e non si vietavano l'un l'altro quello che era nocivo. Quant'era esecrabile quello che facevano. Vedrai che molti di loro si alleeranno con i miscredenti. È così esecrabile quello che hanno preparato che Allah è in collera con loro. Rimarranno in perpetuo nel castigo. Se credessero in Allah e nel profeta e in quello che è stato fatto scendere su di lui, non li prenderebbero per alleati, ma molti di loro sono perversi. Troverai che i più acerrimi nemici dei credenti sono i giudei e i politeisti, e troverai che i più prossimi all'amore per i credenti sono coloro che dicono: in verità siamo nazareni, perché tra loro ci sono uomini dediti allo studio e monaci che non hanno alcuna superbia. Quando sentono quello che è sceso sul messaggero, vedrai i loro occhi versare lacrime per la verità che vi hanno riconosciuto. Dicono: o nostro Signore, noi crediamo. Annoveraci tra i testimoni. Come potremmo non credere in Allah e in quella parte della verità che ci è giunta quando bramiamo che il nostro Signore ci introduca in compagnia dei devoti? Allah li compenserà per quello che dicono, con i giardini dove scorrono i ruscelli, in cui rimarranno in perpetuo. Questa è la mercede di coloro che compiono il bene. E quanto a coloro che sono miscredenti e tacciano di menzogne i nostri segni, questi sono i compagni della fornace. O voi che credete, non vietate le cose buone che Allah vi ha reso lecite. Non eccedete. In verità Allah non ama coloro che eccedono. Mangiate le cose buone e lecite che Allah vi ha concesso, e temete Allah, colui nel quale credete. Allah non vi punirà per un'avventatezza nei vostri giuramenti, ma vi punirà per i giuramenti che avete ponderato. L'espiazione consisterà nel nutrire 10 poveri con il cibo consueto con cui nutrite la vostra famiglia, o nel vestirli o nel liberare uno schiavo. E chi non ha i mezzi di farlo, digiuni allora per 3 giorni. Ecco l'espiazione per i giuramenti che avete disatteso. Tenete fede ai giuramenti. Così Allah vi spiega i suoi segni affinché siate riconoscenti. O voi che credete, in verità il vino, il gioco d'azzardo, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie sono immonde opere di Satana. Evitatele affinché possiate prosperare. In verità, col vino e il gioco d'azzardo, Satana vuole seminare inimicizia e odio tra di voi e allontanarvi dal ricordo di Allah e dall'orazione. Ve ne asterrete? Obbedite ad Allah e al messaggero e state attenti. Se poi gli volgerete le spalle, sappiate che il nostro messaggero deve solo trasmettere in modo chiaro, null'altro. Per coloro che credono e operano il bene, non ci sarà male alcuno in quello che avranno mangiato, purché abbiano temuto Allah, abbiano creduto e compiuto il bene. Temano Allah, credano e sempre temano Allah e operino al meglio. Allah ama i buoni. O voi che credete, Allah certamente vi metterà alla prova con qualche capo di selvaggina che caccerete con le mani e con le lance. Così Allah riconoscerà chi lo teme nel profondo di sé. Chi poi trasgredirà avrà doloroso castigo. O voi che credete, non uccidete la selvaggina se siete in stato di consacrazione. Chi di voi la ucciderà deliberatamente, si riscatti con qualche bestia del gregge, dello stesso valore di quella che ha ucciso. Giudichino due uomini giusti tra voi. E sarà un'offerta che invia alla Caaba. Oppure espii nutrendo i poveri, o digiunando per scontare le conseguenze della sua azione. Allah ha perdonato il passato, ma si vendicherà sui recidivi. Allah è potente, è il padrone della vendetta. Vi è lecita la pesca e il cibo che ne ricaverete. Godetene con gli altri viaggiatori. Vi è invece resa illecita la caccia per tutto il tempo in cui siete in stato di consacrazione. Temete Allah, è a Lui che sarete ricondotti. Allah ha fatto della Caaba, della Santa Casa, un luogo di preghiera per gli uomini. Lo stesso vale per il mese sacro, l'offerta di animali e gli ornamenti delle vittime sacrificali. Ciò affinché sappiate che Allah conosce veramente tutto quello che vi è nei cieli e sulla terra. In verità Allah conosce ogni cosa. Sappiate che in verità Allah è severo nel castigare e che è perdonatore, misericordioso. Al messaggero incombe solo l'onere della trasmissione. Allah conosce quello che manifestate e quello che tenete nascosto. Di: il cattivo e il buono non si equivalgono, anche se ti stupisce l'abbondanza che c'è nel male. Temete dunque Allah, o dotati di intelletto, affinché possiate prosperare. O voi che credete, non fate domande su cose che, se vi fossero spiegate, vi dispiacerebbero. Se farete domande in proposito, vi saranno spiegate dopo che il Corano sarà disceso per intero. Allah vi perdonerà, poiché Allah è perdonatore, paziente. Un popolo che vi precedette fece domande in tal senso e poi rinnegò. Allah non ha consacrato né Bahira, né Saiba, né Wasila, né Hami. I miscredenti inventano menzogne contro Allah e la maggior parte di loro non ragiona. Quando si dice loro: venite a quello che Allah ha fatto scendere al suo messaggero, dicono: ci basta quello che i nostri avi ci hanno tramandato. Anche se i loro avi non possedevano scienza alcuna e non erano sulla retta via? O voi che credete, preoccupatevi di voi stessi. Se siete ben diretti, non potrà nulla contro di voi colui che si è allontanato. Poi tutti ritornerete ad Allah, ed Egli vi informerà di quello che avrete fatto. O voi che credete, se state per morire e fate testamento, prendete come testimoni due uomini integri dei vostri. Oppure, se siete in viaggio e vi giunga preavviso della morte, due uomini a voi estranei. Li tratterrete dopo l'orazione, e se avete dubbi, fateli giurare in nome di Allah. Non rinnegheremo per nessuna somma, neanche a favore di un parente, e non nasconderemo la testimonianza di Allah, che in tal caso saremo peccatori. Se in seguito si scoprisse che hanno commesso un'infamità, siano sostituiti con altri due, scelti tra i parenti prossimi di quanti accampano diritti. Entrambi giureranno in nome di Allah: la nostra testimonianza è più sicura di quella di quei due. Noi non trasgrediremo. In tal caso saremo tra gli ingiusti. Questo sarà il modo più sicuro perché gli uomini testimonino sul loro onore, temendo che venga rifiutata una testimonianza dopo che avranno giurato. Temete Allah e ascoltate. Allah non guida gli ingiusti. Il giorno in cui Allah radunerà tutti i messaggeri dirà loro: che cosa vi hanno risposto? Diranno: noi non abbiamo nessuna scienza. Tu sei colui che conosce l'inconoscibile. E quando Allah dirà: O Gesù, figlio di Maria, ricorda la mia grazia su di te e su tua madre, e quando ti rafforzai con lo spirito di santità, tanto che parlasti agli uomini dalla culla e in età matura, e quando ti insegnai il libro e la saggezza, e la Torah e il Vangelo, quando forgiasti con la creta la figura di un uccello, quindi vi soffiasti sopra, e col mio permesso divenne un uccello. Guaristi col mio permesso il cieco nato e il lebbroso, e col mio permesso risuscitasti il morto. E quando ti difesi dei figli di Israele, allorché giungesti con le prove. Quelli di loro che non credevano dissero: Questa è evidente magia. E quando rivelai agli apostoli: Credete in me nel mio messaggero, risposero: Crediamo, sii testimone che siamo musulmani. Quando gli apostoli dissero: O Gesù, figlio di Maria, è possibile che il tuo Signore faccia scendere su di noi dal cielo una tavola imbandita? Rispose: Temete Allah, se siete credenti. Dissero: Vogliamo mangiare da essa, così i nostri cuori saranno rassicurati. Sapremo che tu hai detto la verità e ne saremo testimoni. Gesù, figlio di Maria, disse: O Allah, nostro Signore, fa scendere su di noi dal cielo una tavola imbandita, che sia una festa per noi, per il primo di noi come per l'ultimo, e un segno da parte tua. Provvedi a noi, tu che sei il migliore dei sostentatori. Allah disse: La farò scendere su di voi, e chiunque di voi dopo di ciò sarà miscredente, lo castigherò con un tormento che non infliggerò a nessun'altra creatura. E quando Allah dirà: O Gesù, figlio di Maria, hai forse detto alla gente: Prendete me e mia madre come due divinità all'infuori di Allah? Risponderà: Gloria a te! Come potrei dire ciò di cui non ho diritto? Se lo avessi detto, tu certamente lo sapresti, che tu conosci quello che c'è in me, e io non conosco quello che c'è in te. In verità, sei il supremo conoscitore dell'inconoscibile. Ho detto loro solo quello che tu mi avevi ordinato di dire. Adorate Allah, mio Signore e vostro Signore. Fui testimone di loro finché rimasi presso di loro. Da quando mi è elevato a te, tu sei rimasto a sorvegliarli. Tu sei testimone di tutte le cose. Se li punisci, in verità sono servi tuoi. Se li perdoni, in verità tu sei l'eccelso, il saggio. Dice Allah: Ecco il giorno in cui la verità sarà utile ai veridici. Avranno i giardini nei quali scorrono i ruscelli e vi rimarranno in perpetuo. Allah sarà soddisfatto di loro ed essi di lui. Questo è l'immenso successo. Appartiene ad Allah la sovranità dei cieli e della terra e di ciò che racchiudono, ed egli è l'Onnipotente.